Abbiamo parlato delle leggende sorte all'ombra del cosiddetto Portico delle Tre Frecce, ma superando la finzione, la storia di Bologna è costellata di autentici complotti che hanno decretato, o avrebbero potuto decretare, un radicale cambiamento storico per la città o, in certi casi, per l'Italia intera. Di alcuni di questi abbiamo già parlato, come la congiura dei Malvezzi, volta a rovesciare Giovanni II Bentivoglio e che comunque segnò l'inizio della fine della signoria bolognese, o come il piano ordito da Luigi Zamboni per liberare la popolazione dall'oppressione pontificia nei mesi che precedettero la discesa dell'esercito napoleonico in Italia. Un potere ingombrante quello esercitato dal Papa, che per tutto l'Ottocento l'Italia cercò di scrollarsi di dosso e contro il quale, va ricordato, si scagliò fino alla morte il predicatore e patriota Ugo Bassi. In realtà si chiamava Giuseppe, ma scelse di chiamarsi Ugo in omaggio al rivoluzionario Foscolo, del quale era un acceso ammiratore. Originario di Cento, Bassi era pervaso fin dall'adolescenza da un fervore patriottico, al punto che, a soli 14 anni, tentò di entrare nell'esercito di Gioacchino Murat per combattere gli austriaci, che dopo il congresso di Vienna si erano insediati in Italia. Ironicamente, anziché un soldato, Ugo Bassi diventò un religioso, pronunciando i voti nel 1821 ed entrando nella congregazione dei chierici regolari di San Paolo di Bologna. Iniziò così un pellegrinaggio per tutta la penisola, predicando tuttavia alla popolazione non la dottrina religiosa, ma denunciando la corruzione della Chiesa e testimoniando a favore delle forze risorgimentali. Questo naturalmente causò la contrarietà degli ambienti della Curia Romana, che in più di un'occasione gli impedirono di esercitare la sua prerogativa alla predicazione. Arruolato nelle forze rivoluzionarie nel 1848 come cappellano, Ugo Bassi si trovò costretto alla fuga l'anno successivo, dopo la caduta della Repubblica Romana, insieme ad altri patrioti, tra cui Giuseppe Garibaldi. Ironia della sorte fu proprio per la sua somiglianza con Garibaldi che il 2 agosto 1849 fu arrestato a Comacchio dai carabinieri pontifici, all'Osteria della Luna. Per ritardare gli inseguitori e coprire la fuga del suo grande amico, Ugo Bassi non fece resistenza all'arresto. Consegnato agli austriaci a Bologna, venne fucilato in fretta e furia l'8 di agosto, esattamente a un anno di distanza dalla celebre battaglia della Montagnola che li aveva visti, temporaneamente, costretti a una ritirata a nord del fiume Po. La ricaduta del suo martirio fu pressoché immediata, rendendo la sua tomba meta di pellegrinaggio e ispirando una vasta letteratura di carattere patriottico. Alcuni decenni dopo, l'Italia unita si trovò a fronteggiare una nuova minaccia alla democrazia, quella del fascismo. E proprio Bologna diventò teatro di uno dei più celebri complotti della storia del primo dopoguerra, l'attentato al Duce. Il 31 ottobre 1926, infatti, era destinato a diventare nefasto per Benito Mussolini. Giunto a Bologna per l'inaugurazione dello stadio Litorale, nonostante si fosse compiaciuto di aver trovato la città più fascista che mai, quello fu il giorno in cui rischiò di essere ucciso. Luogo dell'attentato fu il Canton dei Fiori, lo stesso in cui si riunivano Luigi Zamboni e Giovanni Battista De Rolandis più di un secolo prima. Le celebrazioni per il quarto anniversario della rivoluzione fascista erano terminate. Il buio era calato sulla città ed erano stati accesi i riflettori puntati su ogni monumento di Piazza Maggiore, che all'epoca era stata chiamata Piazza Vittorio Emanuele. Un fascio littorio fatto di lampadine brillava sulla cima della Torre Asinelli. A bordo di un'auto diretta alla stazione, alla cui guida sedeva il podestà Leandro Arpinati, il Duce stava salutando la folla, quando improvvisamente si sentì echeggiare un colpo di pistola. Il proiettile mancò il cuore di Mussolini per un soffio, rimbalzando sul cordone dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro che portava sul petto, per poi andare a conficcarsi sul copricapo di Arpinati. Come prevedibile, tra la folla si scatenò il panico. Lo scrosciare degli applausi si trasformò in un coacervo di urla. Arpinati accelerò bruscamente per allontanare l'auto dalla linea di fuoco. È a questo punto che la situazione si fece concitata e le ricostruzioni discordanti. Il tenente di fanteria Carlo Alberto Pasolini, padre di Pierpaolo, fu il primo a intervenire. Con sua grande sorpresa si rese conto che ad avere la pistola tra le mani era un ragazzino di 15 anni. Si trattava di Anteo Zamboni. Ma prima che il militare potesse fare alcunché, il ragazzo venne immobilizzato, poi strattonato dalla folla. Come sbucato dal nulla intervenne uno squadrista che lo pugnalò freddamente al petto. Anteo si accasciò a terra e venne pestato a sangue dalla folla inferocita, sobillata dagli altri squadristi che erano intervenuti sul posto. L'accanimento si arrestò solo quando un brigadiere, intervenuto per portare il giovane in questura, si rese conto che il ragazzo non respirava più. Anteo Zamboni morì sull'asfalto di Piazza Nettuno, barbaramente linciato dalla folla e dagli squadristi per aver attentato alla vita del Duce. Ma è stato davvero lui? Troppi particolari sembrano fuori posto. Anteo, detto il Patata, che fino all'anno prima era un balilla, non aveva mai mostrato segni di insofferenza nei confronti del regime. Era un ragazzo tranquillo e suo padre, un ex anarchico, era diventato un fascista convinto e nella sua tipografia stampava volantini di propaganda. Possibile che Anteo Zamboni, poco più che un bambino, sia stato in grado di sparare al buio con la folla che si accalcava e spintonava, mancando il cuore di Mussolini per pochi centimetri, dimostrando una mira eccezionale e notevole sangue freddo? C'è chi sostiene che la pistola sia stata invece gettata ai piedi del ragazzino dal vero attentatore e che Anteo si sia soltanto trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. È possibile che l'abbia raccolta per curiosità o per paura? Pare che il primo a indicare Anteo come colpevole sia stato un uomo con un completo chiaro, che si era poi dileguato in fretta e furia senza essere mai identificato. Saputo dell'attentato, Papa Pio XI dichiarò: «Si tratta di un criminale attentato il cui solo pensiero ci rattrista e che ci fa rendere grazie a Dio per il suo fallimento». Forse, più che l'atto estremo di un singolo, l'attentato di Bologna fu frutto di un complotto destabilizzatore maturato in seno alla gerarchia fascista. E infatti fin dal principio andarono in quella direzione le indagini della polizia, concentrandosi negli ambienti dello squadrismo bolognese, senza però raccogliere indizi sufficienti a carico di alcuno. «Degli attentati da me subiti», affermò successivamente lo stesso Mussolini, «quello di Bologna non fu mai completamente chiarito. Certo che me la cavai per miracolo. L'esecutore, o presunto tale, fu invece linciato immediatamente sul posto dalla folla. Con questo atto barbarico che deprecai, l'Italia non dette certo prova di civiltà». L'immediata conseguenza del gesto fu un giro di vite autoritario da parte del regime. Furono approvate leggi speciali per la sicurezza dello Stato, espulsi dal Parlamento un centinaio di deputati dell'opposizione, chiuse forzatamente tutte le pubblicazioni considerate ostili e istituita la pena di morte per gli omicidi a sfondo politico. Ma non è finita qui. C'è infatti un altro mistero collegato a questa vicenda. Nel 1929, 3 anni dopo l'inaugurazione dello stadio, infatti, venne edificata come ornamento la Torre di Maratona, situata in prossimità del luogo dove era stato fucilato Ugo Bassi. Nell'incavo ad arco della torre venne posizionata una gigantesca statua equestre del Duce che però, nel 1943, alla caduta del fascismo, fu presa d'assalto dalla furia popolare. La statua fu decapitata e la testa in bronzo di Mussolini venne trascinata appesa a una corda per le vie di Bologna. Requisita dalla Gestapo, poi passata più volte di mano in mano nel corso dei decenni, la testa della statua, dopo essere stata a lungo ospite di un museo privato in via Marconi, è ora scomparsa senza lasciare traccia, probabilmente rubata e poi venduta a un collezionista. Delitti d'autore. Oggi